effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! Allora, ben trovati e ben trovate a tutti i nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, che si trovano sempre qui nello spazio radio della stampa rassegnata, che è giunta alla sua 23esima puntata, cominciando da gennaio del 2018. Come sapete, o ci ascoltate e ci starete ascoltando, ce lo auguriamo, nella diretta in streaming del lunedì alle 15.30, oppure ci ascolterete, se volete, in replica il mercoledì alle 23.59 o il giovedì alle 8.30 di mattina. Questi sono i nuovi orari da alcune settimane che hanno sostituito le repliche quotidiane con cui avevamo cominciato, ma d'altronde, e ci fa anche piacere, stringiamo un po' la cinghia dei nostri spazi, perché la radio è cresciuta, ha ospitato anche altre trasmissioni e dall'altra parte il tentativo è anche quello di avere orari e giorni diversi per provare ad allargare il pubblico che ci ascolta in streaming o attraverso le onde medie alla modulazione di frequenza del 1359. Dall'altra parte, per chiunque volesse, può tranquillamente scaricare o trovarci attraverso i podcast nel sito della radio, che su qualunque motore di ricerca basta digitare Radio Wombat e arrivate tranquillamente al nostro sito, su cui trovate non solo questa trasmissione, ma ovviamente anche tutte le altre. Come sapete, o se non lo sapete ve lo dico, la stampa rassegnata è una trasmissione che si è prefissata all'obiettivo di sviluppare delle riflessioni e dare uno sguardo critico e il più possibile decostruttivo a quello che è l'universo della informazione mainstream per quanto riguarda avvenimenti locali. Spesso tentiamo di passare dal particolare al generale e dal locale al globale, in un gioco e in uno sforzo dialettico non sempre facile, ma che è un po' quello che vorrebbe contraddistinguere il nostro lavoro, senza presunzione, e lo facciamo sempre dandoci una settimana di comporto, nel senso che quello che ascolterete in questa settimana, cioè dal lunedì 18 fino a domenica 24, in realtà sono notizie che sono e fatti avvenuti tra lunedì 11 e domenica 17. Ovviamente questo ci serve per avere dei giorni a disposizione per selezionare le notizie, perché di tutto chiaramente abbiamo imparato, io per primo, che non possiamo parlare di tutto, in qualche modo, se ci è possibile, aprire delle piccole finestre di approfondimento o di flash in base a quello che ci sembra interessante e alle cose sulle quali ci sembra utile e rilevante portare la vostra attenzione, oppure anche fare qualche domanda in qua e là a delle voci attive e presenti dentro il movimento antagonista, dentro la sinistra anticapitalista e dentro le vertenze e i conflitti sociali che animano Firenze e La Piana, quando è possibile e ci è concesso. Una delle mission della nostra trasmissione è stata fin dall'inizio quella di fare anche un po' il punto della situazione, rimpallare, se così mi passate il termine, le iniziative e le riflessioni delle due vertenze popolari che hanno animato e continuano ad animare La Piana fiorentina, quella contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, che si è andata, tra virgolette, a chiudere, o meglio, ad aprire una nuova fase del conflitto sul ciclo dei rifiuti, proprio recentemente dopo la vittoria attraverso la sentenza del Consiglio di Stato arrivata proprio in questo mese, e dall'altra parte quella contro l'apertura, ampliamento, costruzione del nuovo aeroporto intercontinentale di Peretola, a cui si sommano e si sovrappongono diciamo, tutte le infrastrutture e il cemento che si accompagnano adesso nell'operazione di Castello e nel riassetto complessivo del quadrante nord-ovest della città e dell'area metropolitana. Dopo questa lunga introduzione, che spero non sia stata né noiosa né superflua, vorrei cominciare la trasmissione di questa settimana con una notizia che, contrariamente e andando subito a negare quello che ho orora dichiarato, non è avvenuta, o meglio, non è stata, non è comparsa sulla cronaca locale nella settimana che dovremmo prendere in esame, ma è una notizia che ci è, tra virgolette, avanzata dalla settimana precedente, che era già stata ricca di eventi. È una notizia che riguarda le scuole fiorentine e la vado subito a leggere. Notizia che, diciamo così, per chiudere le premesse, non si discosta troppo dai temi di questa settimana, che saranno, le cui parole chiave potrebbero essere considerate come sicurezza, delirio securitario, razzismo, razzismo istituzionale, perché chiaramente questa, appena passata è una settimana che è stata fortemente, se non dominata, sicuramente fortemente condizionata da quello che è accaduto domenica e poi lunedì, cioè la morte di Duccio, di Ducciolini o Duccino, e quindi dalla narrazione tossica che ha seguito tutta la vicenda della sua tristissima scomparsa nell'incidente. Lo dico anche questo subito: Duccio in qualche modo lo abbiamo anche conosciuto, l'ho conosciuto personalmente giocandoci a calcio, anche nelle cronache locali e in tutto quello che è girato intorno a Duccio. È stato molto forte l'elemento del coinvolgimento calcistico, sia come tifoso, ma ancora di più, ed è l'elemento che ci ha fatto conoscere come giocatore, come persona amante lo sport, nel praticarlo più che nel guardarlo o nel viverlo passivamente come show. Duccio ha giocato nel torneo Calci dal Basso in una delle prime edizioni, quando era veramente un pischellino che insomma, in qualche modo ci ha attraversato. Ovviamente il suo attraversamento nelle file della Calci dal Basso e in qualche modo, diciamo, in questa attività sociale di incontro, non ci permette di dire che Duccio era uno di noi. Ci ha attraversato troppo poco per, appunto, per considerarlo un nostro compagno, però ci ha attraversato abbastanza da renderci ancora più insopportabile la strumentalizzazione della sua morte, che abbiamo visto appunto avvenire lunedì 11 ad opera dei Fratelli d'Italia guidati da Donzelli, e di cui poi cercheremo di parlare senza entrare troppo, farci troppo coinvolgere, ma provando a fare delle riflessioni. Quindi, detto questo, e salutando, se mai ci dovessero ascoltare, e abbracciandoli idealmente per questo terribile lutto, tutta la famiglia, gli amici di Duccio, anche quelli più amici di noi e di me, vado insomma, alla notizia di cui avevo cominciato un po' a parlare. Da Repubblica, l'ho presa da Repubblica, del 6 giugno del 2018, l'inchiesta Bazar di droghe nel bagno di scuola. Sottotitolo: indagati 5 ragazzi tra i 16 e i 17 anni scoperti con le microcamere. Il preside non era consumo, ma spaccio. Due note dall'articolo, tanto per introdurvi su quello di cui si sta parlando: i bagni della scuola come un piccolo bazar di droghe leggere, cui potersi rifornire 6 giorni la settimana. Un avviato giro di spaccio in un istituto professionale fiorentino è stato scoperto nel corso di un'inchiesta della Procura dei Minori. Cinque ragazzi, tutti tra i 16 e i 17 anni, sono finiti sul registro degli indagati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ad incastrarli le immagini di alcune microcamere piazzate nelle scorse settimane dalla squadra mobile, proprio nell'anticamera dei bagni. Le posizioni più complicate sarebbero quelle di un ragazzo albanese di 17 anni e di uno italiano di 16, che avrebbero gestito il traffico, mentre gli altri tre giovani sono risultati per lo più clienti abituali. L'articolo poi va, insomma, continua un po' a descrivere questa situazione, c'è le parole della preside e quant'altro. Diciamo che, per quello che mi sembra così rilevante, importante dire e fare una nota su quello che è l'universo nella scuola, credo che la presenza e la politica, diciamo, repressiva o comunque di forte controllo sociale agita nei confronti dei ragazzi, ovviamente per lo più di quelli nella fascia di età scuole superiore, è uno strumento che in qualche modo si va connotando anche come un non nuovo, ma di maggiore intensità rispetto al passato, a livello quantitativo, dispositivo di, appunto, di controllo sociale, di autoritarismo adulto e istituzionale per quanto riguarda la scuola e lo Stato, che se lo sommiamo e lo affianchiamo ad altre campagne che si stanno sviluppando intorno a quelle fasce d'età in modo molto forte, quali per esempio le campagne contro il bullismo, che gratta gratta in realtà nascondono poi un tentativo di ripristino dell'autorità sia scolastica che statale e più in generale del principio di autorità sui ragazzi e non solo appunto la questione del bullismo, ma una ristrutturazione generale della scuola intorno a un principio di autorità che poi, o come principio di autorità, è il principio manageriale, principio quindi di autorità d'impresa intorno al quale si va ristrutturando o intorno al quale si tenta di ristrutturare la disciplina dei corpi e delle menti a partire proprio dalle scuole e dalle scuole superiori che di questa disciplina del lavoro cominciano a fare già esperienza nelle scuole superiori attraverso la nuova, sì, diciamo nuovamente nuova istituzione dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi intorno alla vicenda di del bazar delle droghe c'è appunto quella connessa al panottico di polizia che è stato sviluppato con le telecamere nei bagni. E credo che appunto un aspetto rilevante di questa vicenda sia proprio questo, no? Quello del peso e dell'importanza che assume l'intervento di tipo autoritario e correttivo rispetto invece a un punto di vista che sia informativo, che sia di coscienza e che possa, permettere l'emancipazione e la liberazione dei soggetti anziché la loro oppressione. Quindi intorno a queste tematiche mi è sembrato interessante, curioso fare, diciamo, rivolgere la domanda e girare questa notizia a una compagna che da anni si occupa di queste cose, sia per quanto riguarda, tra virgolette, una passione personale, un talento personale a ragionare intorno a queste tematiche del delirio di sicurezza e appunto diciamo, della libertà dei comportamenti, sia anche perché coinvolta a livello lavorativo. Sto parlando della compagna Nicoletta, che alcuni ascoltatori conosceranno, credo, senza nessun tipo di problema, anche a livello personale, perché da anni impegnata nel movimento e nelle varie vicende appunto che compongono il movimento antagonista e i conflitti sociali insomma nella Firenze e proprio in quanto compagna e in quanto operatrice della CAT impegnata, ripeto, diciamo come operatrice nella riduzione del danno, le abbiamo girato la notizia per avere da lei un commento competente intrecciato a tutta una serie di attività che negli anni, per lavoro e per, come ripeto, per passione, hanno svolto intorno sia alla scuola e a questa fascia d'età, sia alla vicenda delle droghe. Ve la lascio ascoltare, in questa intervista che ci ha appunto rilasciato, a seguito della notizia. Dopo Nicoletta ritorniamo in voce e continuiamo con il resto delle nostre discussioni e chiacchierate. Ecco Nicoletta. Quello che è successo la settimana scorsa in una scuola della nostra città, ovvero che un preside abbia deciso di accogliere la richiesta delle forze dell'ordine di piazzare delle telecamere nascoste, nel bagno per, intervenire in una situazione di presunto spaccio che avveniva in quella scuola, credo che sia il segnale del fatto che, siamo in un momento storico in cui, il patto. Cioè, si sono rotti dei patti di fiducia, quella fiducia che a mio parere costituisce l'ingrediente, l'unico forse ingrediente che abbiamo quando si cerca di passare delle conoscenze, delle competenze, degli strumenti a qualcuno che in qualche modo ne fa richiesta e che soprattutto credo sia l'unico forse ingrediente prezioso che abbiamo nella relazione fra differenti generazioni. Se la scuola, che in qualche modo è il teatro principale di questo legame di fiducia che si dovrebbe creare fra adulti e ragazzi, si pensa a così poca opinione di sé, tanto da delegare alla repressione l'intervento su qualcosa che invece dovrebbe e potrebbe essere elemento di riflessione comune, di intervento comune e soprattutto lo scopo primo, no, di quello che è appunto un percorso scolastico ed educativo. Ecco, allora io credo che se la scuola per prima, cioè, si nega in questo suo posizionamento, cioè siamo messi veramente male. Io lavoro da tanti anni nella prevenzione e nella riduzione del danno per una cooperativa, la CAST di questa città, e tante volte mi è capitato di essere invitata nei vari progetti in cui lavoro, dentro le scuole, soprattutto in occasione delle autogestioni oppure delle occupazioni. Credo che questo sia un segnale in qualche modo rassicurante rispetto al fatto che non sempre i ragazzi, come dire, accolgono come efficace qualcosa che avviene attraverso la repressione, l'intimidazione e comunque attraverso dei gesti molto forti. Spesso, cioè, i ragazzi quando hanno la possibilità di auto-organizzarsi ricercano invece gli strumenti per poter avere una cassetta degli attrezzi da utilizzare nelle situazioni difficili, che spesso la sperimentazione, che è appunto un po' la caratteristica dell'adolescenza, cioè gli pone di fronte. Mi capitava di incontrare persone molto giovani che in qualche modo si chiedevano che avvenisse uno scambio di competenze, non perché volessero essere né contenuti né giudicati, sì, soprattutto non volevano essere giudicati, semplicemente volevano essere messi in condizione di poter scegliere da soli. E credo che sia compito di un adulto anche dare la possibilità a qualcuno di scegliere per se stesso. Non credo che l'istituzione educativa, per essere efficace, debba dimostrare di saper usare le maniere forti. Io credo che se la scuola si trasforma in guardie e ladri, abbiamo perso, ma abbiamo perso veramente tutti. E soprattutto, cioè, credo che sia il sistema migliore per come dire, scavare un fossato profondo e profondo, in modo che appunto cioè, la distanza sia tale per cui non possa esistere nessun legame, nessuna comunicazione, nessuna relazione. E con questo non intendo dire che il fenomeno dell'abuso delle sostanze legali e illegali, non dimentichiamo dei farmaci, e su questo potremmo aprire veramente una lunghissima riflessione su come dire, anche gli scenari che si aprono, cioè accanto all'autoritarismo di pensare che la polizia possa risolvere una lacuna educativa che anche la scuola penso debba porsi di fronte quando non riesce a parlare con le persone giovani che affollano le sue stanze, cioè gli studenti, cioè quando nelle scuole cittadine, cioè prima di questo episodio, cioè cronaca dello scorso anno, di molti presidi che hanno lasciato arrivare dentro la scuola cani antidroga, che queste sono cose raccontateci dagli studenti quelle volte che facciamo i laboratori sulle sostanze durante le autogestioni, cani antidroga che entravano durante i compiti in classe, che interrompevano anche momenti importanti della vita appunto quotidiana che avviene in una classe. Cioè, quando si normalizza questo, quando il fatto che ci sono delle telecamere nascoste o dei cani antidroga che entrano dentro una scuola, cioè, diventa normale, cioè, quando non ci si stupisce più, allora bisogna veramente preoccuparsi. Per cui penso che esistono comunque tante persone, tanti presidi, tanti insegnanti, tanti studenti, tanti genitori che non si riconoscono in questa visione delle cose. Io lo dico da compagna, lo dico da persona che ama studiare, che ha amato la scuola, che l'ha anche odiata, lo dico anche come lavoratrice, cioè, insomma, che da anni riflette su queste questioni. Cioè, ecco, io penso che il mondo delle sostanze è qualcosa di molto complesso e che può costituire una lente di ingrandimento, una chiave di lettura molto molto importante per comprendere i meccanismi che in qualche modo contribuiscono a determinare cioè degli stili di comportamento nella nostra società. E io penso che come dire, le derive di non coscienza, di appunto abuso che a volte si hanno parlando di uso di sostanze, soprattutto rispetto ai giovani e ai giovanissimi, cioè, sia qualcosa di molto grave, di serio. Cioè, credo che ci sono tante sostanze che pensavamo essere scomparse, che invece sono drammaticamente tornate alle cronache, sicuramente l'eroina, ma appunto anche la facilità con cui si reperiscono molti farmaci. Cioè, io penso che questo sia un grandissimo problema e sia assolutamente qualcosa che ha un significato, ma sulla quale dovremmo interrogarci, perché non è che a un certo punto si decide che è così naturale usare sostanze che possono anche provocare dei danni gravi alla salute. Cioè, viviamo in una società per cui per ogni sintomo esiste una cura, che è una pasticca o comunque un farmaco da assumere. Interroghiamoci su questo, cioè cerchiamo di mettere in essere nella nostra vita quotidiana dei comportamenti che in qualche modo riportano a una centralità del corpo. Gli individui sono fatti di corpi, non siamo numeri, non siamo pedine da spostare e non siamo animali da tenere in gabbia, come cioè, si pensa in certi settori della nostra società, purtroppo ormai dobbiamo dire anche dentro la scuola. Credo che l'informazione, la controinformazione, conoscere il più possibile cioè quello che ci può succedere sia sicuramente uno strumento per combatterlo. Quindi penso che se tanti presidi decidessero di dare spazio alla prevenzione, alla informazione reale, magari le cose andrebbero diversamente. Le forze dell'ordine fanno le forze dell'ordine, ma insomma la scuola dovrebbe fare la scuola. E mi auguro che insomma non diventi la norma leggere articoli di questo tipo, ecco. grande. Quando muore un operaio perché senza protezioni, quando i morti di fame se ne contano a milioni, quando la camorra ammazza meno gente del lavoro, mentre tu povero stronzo piange ancora Aldo Moro. Quando anche un bambino sa quanta gente morirà, quando cazzano uno o due e non ne vuoi sentire parlare, allora spara bastardo, dai sparagli addosso. Tanto domani sono morti lo stesso, dai sparagli addosso. Ammazzali tutti, dai, noi siamo i belli, loro sono brutti, dai, loro sono brutti, ma brutti davvero. E poi spara anche me, sono uno di loro. E tu spara, sono una rapor. Tu spara, ho sbagliato a nascere. Spara, sono un immigrato. E tu spara, sono povero. E tu Eccoci di nuovo in voce con voi per andare avanti su quello che avevo annunciato all'inizio, notizie, serie di notizie e diciamo fatto di cronaca che è durato un'intera settimana, di cui d'altronde non possiamo non parlare, notizie che come sempre accade in questi casi ci impongono di misurare e pesare ogni parola. Tenterò di farlo, per quanto appunto la cosa non ci può esimere da insomma delle amare considerazioni su quello che è accaduto. Premesso e già fatti diciamo i saluti alle persone più vicine a Duccio, che in qualche modo, come ho ricordato all'inizio, è stata una persona per un brevissimo ma comunque importante momento vicina anche a me. Diciamo che questa settimana è stata appunto avvelenata, senza ombra di dubbio, sia nella cronaca locale, ma forse ancora di più nei social e anche negli interventi delle emittenti locali e non solo, da quello che appunto che è accaduto. Domenica, come sappiamo, questo è il dato brutale, diciamo, brutale per chi non lo dovesse aver visto, ma insomma credo che nessuno a Firenze degli ascoltatori della radio gli può essere sfuggito quello che è accaduto. Duccio con il suo motorino, domenica fermo in coda a un semaforo, arrivano due auto che appunto si erano già cominciate a speronare ore prima in un lungo inseguimento che finisce malissimo, perché l'auto che colpisce quella davanti con una terribile carambola pare anche incendiandosi. Nel frattempo colpisce il motorino di Duccio insieme a un'altra macchina, e Duccio è gravissimo, viene portato all'ospedale e il giorno dopo, lunedì 11, muore. La cosa ha subito una certa rilevanza, ma la vera e propria supernova mediatica è proprio di lunedì, perché c'è la manifestazione, il presidio convocato dai Fratelli d'Italia, guidati da Donzelli, che vanno sul luogo, insomma, dell'accaduto per deporre dei fiori, per fare una sorta di presidio che è a metà tra un momento, diciamo, di ricordo e di incoraggiamento e una manifestazione propriamente politica, che poi sfocia con un tentativo, peraltro abbastanza velleitario ma comunque significativo, di marciare verso il poderaccio, mettendo in evidenza un meccanismo psicologico, o meglio il tentativo di innescare un meccanismo psicologico, che è quello di estendere la colpa individuale dei due autisti delle macchine coinvolte nell'incidente di origine rom, di estendere questa colpa individuale a tutto il gruppo etnico di riferimento, che sarebbero i rom del poderaccio. Quindi, appunto, la notizia fa scalpore, perché c'è questo tentativo di arrivare al poderaccio e si susseguono e si rimpallano argomenti deliranti di tipo ovviamente razzistico, e dico razzistico, neanche razzista, perché siamo davvero alla degenerazione di ogni, o meglio, a portare alle estreme conseguenze ogni tipo di ragionamento che vorrebbe le società divise per gruppi etnici o nazionali, e quindi è quello che succede. Gli articoli, ripeto, dei giornali di questa settimana sono davvero tanti, non è possibile riassumerli né entrare troppo nel merito per tante ragioni, una di queste è proprio il tempo, però insomma quello che accade è presto detto. C'è la destra, guidata da Donzelli in questo caso, a cui poi si affianca anche gli interventi ovviamente di Salvini, che arrivano dal nazionale da fuori Firenze, che invocano la vendetta senza neanche girare troppo intorno alle parole, che imputano la responsabilità di tutto quello che è accaduto, cioè di un incidente stradale, per quanto ovviamente un incidente stradale non avvenuto per una semplice distrazione, ma in una condotta stradale ovviamente e certamente criminale, ma insomma riconducono tutto questo alla presenza dei rom, di tutti i rom in Italia, e in particolare alla presenza del campo rom del poderaccio. Quindi la cronaca locale per giorni fa una sorta di bignami, di piccoli speciali continui, la Nazione è capofila, perché lunedì sono 6 o 7 le pagine dedicate quasi interamente all'accaduto e a ciò che intorno all'accaduto si vuole costruire, quindi all'idea della colpa etnica di essere in Italia, di avere delle condotte assolutamente immorali e quindi di essere responsabili non solo di questa morte, ma di chissà quanti altri fattacci e chissà di cosa in potenza. Nella vicenda interviene a livello di cronaca e di presenza anche il padre di Niccolò Ciatti, intorno alla questione della giustizia e della campagna per la giustizia per Niccolò Ciatti ho fatto alcune riflessioni in una vecchia puntata, che se volete la potete riprendere. Metto solo in evidenza il fatto che il padre di Niccolò Ciatti, per quanto non sembri uomo di proveniente da una famiglia di destra, e lo abbiamo visto in qualche modo girare tra uomini politici sia della cosiddetta sinistra che della destra, è però stato anche presente sul palco di Salvini a Scandicci, nella visita appunto di Salvini a Scandicci. Stiamo parlando di cose avvenute prima dell'esploit della Lega alle elezioni nazionali. quindi un declinarsi del tema della giustizia in forma giustizialista che lascia sicuramente un po' perplessi e sul quale credo vada davvero posta una certa attenzione. Ovviamente chi uccide un ragazzo di neanche 30 anni, ma poteva averne anche 60, non fa alcuna differenza, che è fermo a un semaforo sul motorino facendo le peggiori stupidaggini guidando la macchina, deve essere punito o punito a dovere. Ma d'altronde è anche vero che non può passare più di tanto l'idea di una giustizia retributiva che vada a consolare della morte con pene più forti e più severe. Questo è un po' quello che mi sento di dire in merito al fatto specifico. Per quanto riguarda invece tutto il discorso più ampio di quello che è accaduto, ripetiamo, c'è stata la manifestazione di Donzelli che ha fatto ovviamente molto scalpore. Per risposta il sindaco Dario Nardella non ha mancato uno di decretare il lutto cittadino, evento quello della scelta appunto di decretare il lutto cittadino è una cosa che diciamo potremmo commentare con un mi fa piacere, sono contento perché in effetti la morte è stata tristissima, è giusto che la città la ricordi. Dall'altra parte sono molte le situazioni in cui si muore in maniera diciamo assurda eppure non si decreta il lutto cittadino, quindi anche su questo insomma tentando di sviluppare delle riflessioni di una certa attenzione di non farsi dominare solo dalla pancia, credo che vada vista nella scelta di decretare il lutto cittadino anche un vero e proprio gesto politico rivolto a quei settori popolari che oggi sempre più sono stati portati all'odio etnico piuttosto che a una sana rabbia di classe e che anche nell'episodio di Duccio si è messo fortemente in evidenza questo elemento di razzismo popolare. Razzismo popolare al quale il sindaco Nardella ha voluto rispondere decretando il lutto e non mancando di dire che appunto il campo rom verrà sgomberato, era già in programma lo sgombero, o meglio se c'è il campo rom è ancora tutto un caso perché se fosse per loro avrebbero fatto già quello che probabilmente minaccia Salvini, e quindi in sostanza un tentativo anche di non perdere voti su queste vicende legate alla sicurezza, o meglio alla sicurezza percepita, che stanno diventando appunto sempre più portanti sia delle campagne elettorali e più in generale del dibattito pubblico. Io su questo mi vorrei spostare un attimo rispetto a questa appunto alla mera cronaca locale e diciamo ho così voluto e vorrei fare un passo fuori dalla cosiddetta infosfera, perlomeno rispetto a quella mainstream, anche se è uno se è l'aspetto principale della nostra trasmissione, ma per uscire da questo elemento di cronaca per andare a fare due parole su quello che è stato invece l'origine di queste cose. E lo vorrei fare attraverso degli interventi importanti, degli audio che ho recuperato un po' per caso, un po' perché sono assolutamente sensati, e facendo tra virgolette un po' di storia della detenzione amministrativa e appunto delle politiche migratorie, senza alcuna presunzione, ma sono due contributi che vi porto da un lato perché appunto intorno a questi temi del razzismo e della sicurezza c'è un grandissimo parlare, e un grandissimo parlare che lascia molta confusione e lascia molto perplessi. Abbiamo visto Renzi in Parlamento rivolgersi a Salvini e Di Maio citando due senegalesi che furono uccisi da Casseri nella strage di Piazza Dalmazia. Abbiamo visto subito un riprendere dell'iniziativa della sinistra PD e delle sue proiezioni e delle sue compagini sociali, non ultima anche in parte settori della CGIL, una ripresa dell'iniziativa sui temi dell'antifascismo e sui temi dell'antirazzismo. E sono appunto prese di posizione che credo dovremmo avere quantomeno nell'ambito della sinistra anticapitalista, la capacità di leggere sul lungo periodo e di leggere per quello che sono, cioè manovre di propaganda politica che nascondono delle responsabilità enormi, davvero davvero davvero enormi, in tutta questa vicenda. Cioè, se oggi siamo arrivati dove siamo arrivati, gran parte di queste responsabilità è da imputare proprio al cedimento culturale della sinistra, che sui temi dell'antirazzismo, dell'internazionalismo e di una riconduzione di fenomeni come quello delle migrazioni a dinamiche geopolitiche e degli assetti del capitalismo globale, hanno sostanzialmente totalmente rinunciato con la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Con questo la sinistra, o meglio da quella che chiamiamo da tempo la sinistra istituzionale, si è andata macchiando e portando sulle spalle le, se non le più grosse, quantomeno enormi responsabilità. Non credo che appunto Salvini, non credo che Salvini dal punto di vista del razzismo abbia niente a che invidiare al ministro Minniti. Ministro Minniti che appunto negli ultimi sprazzi del governo Renzi, o Renzi bis, meglio detto Gentiloni, ha dimostrato che le frontiere vanno gestite in maniera militare, che nella vicenda della Open Arms ha dimostrato la capacità e la disponibilità a mettere in mano appunto alle forze armate, alla marina militare, la gestione dei flussi migratori, che non ha avuto scrupoli ad accordarsi e a far eseguire, a appaltare il controllo delle frontiere a bande criminali oggettivamente e così riconosciute in modo pubblico di fronte al consesso mondiale, e appunto dimostrando in questo che c'è una forte continuità tra destra e sinistra su questi temi come su altri. Per rimanere a questi, io appunto ho preparato per voi questo audio, tagliandolo da un video, e così colgo l'occasione anche per introdurlo per introdurlo, e volevo dire per fare pubblicità a chi ci permette di usufruirne in maniera più rapida attraverso la rete oggi. Cioè, sto parlando dell'archivio 68, che ha digitalizzato diversi materiali audio e video appartenente al movimento antagonista e al centro di documentazione antagonista e ad altre situazioni di provenienza, che ci rende disponibile nel grande archivio mediatico di Archive questo video. Sto parlando di un video, un montato di due momenti importanti. Uno, una manifestazione a Firenze contro i centri di detenzione, lager per migranti, manifestazione del 29 gennaio del 2000, e invece poco dopo, di cui vi farò ascoltare l'audio che sono riuscito a estrarre dal video, un incontro tra i movimenti antirazzisti di Firenze e il sindaco, allora sindaco di Sesto Fiorentino, Gianassi, democratici di sinistra. Ovviamente nell'audio, però ce lo possiamo aspettare, parlano, ho trattenuto due voci per ragioni di qualità dell'audio e per ragioni significative. Uno è Lorenzo Bargellini e l'altra è Orietta Lunghi. Di Lorenzo Bargellini non credo che ci sia bisogno di parlare. Orietta Lunghi, io l'ho conosciuta negli ultimi anni della sua lunga militanza politica come una compagna della Confederazione dei Comunisti presente al Consiglio regionale, poi colpita da una lunga e triste malattia che poi ci ha lasciato. Sia Lorenzo che Orietta ad oggi ci hanno lasciato, ma le loro voci sono importanti come documento storico e per avere presente e affrontare i passaggi dell'oggi e del futuro con l'occhio lungo, con i tempi lunghi dei conflitti e con l'esercizio della memoria che appunto ci aiuta a comprendere il presente. Era il 2000 e molte delle cose che oggi si dicono erano già presenti. Sono passati teniamo conto, 20 anni, e erano gli esordi delle politiche migratorie dei governi di centrodestra e centrosinistra, negli anni caratterizzati dall'alternanza tra centrodestra e centrosinistra, che poi troppo spesso ricordiamo, o meglio, sono stati raccontati come il ventennio berlusconiano. In realtà non è stato un ventennio berlusconiano, ma un ventennio di continua alternanza tra governi di centrodestra e centrosinistra. Questo è quello che vi lascerò dopo queste mie credo importanti introduzioni. Vi lascerò l'intervento di questi due compagni che prendono il sindaco in modo molto diretto in una delle tante manifestazioni contro l'apertura di un centro di permanenza temporanea nel comune di Sesto, come allora veniva ipotizzato, cosa che è stata ripresa poi più avanti quando non si parlava più di CPT, cioè di centri di permanenza temporanea, ma già di CIE, cioè centri di identificazione ed espulsione, e che probabilmente dovremo riprendere in mano nel futuro, perché già Nardella dichiara che se ci saranno nuove disposizioni dal governo per la costruzione di un centro di detenzione, usiamo questa dicitura generica che varrà per tutte le ristrutturazioni linguistiche che vorranno fare, ci sarà la necessità di riprendere anche questo terreno dell'iniziativa. Quello che appunto volevo solo dire è che si parla di cose di diciamo già 20 anni fa, e per dare due coordinate mi sono appuntato alcune cose. Dov'è che comincia la politica migratoria tesa alle espulsioni? Cioè, e quindi con questo anche fortissimamente, in modo che poi subisce un'escalation sicuramente dagli anni 2000 in poi, ma comincia già a scavare all'interno del paese e a soffiare sulla fiamma dell'odio, delle distinzioni etniche e della recriminazione nei confronti degli stranieri. Siamo già negli anni 90, l'Italia comincia a dimenticarsi gli anni dei grandi conflitti sociali e politici. L'Italia è un paese che diventa grande, nel senso che è un paese del G7, G8, quindi è un paese tra i grandi. Crolla il muro di Berlino, con questo finisce l'esperienza ovviamente già esaurita per quanto riguarda il suo carattere di emancipazione di classe, ma comunque da un punto di vista geopolitico era ancora una forte un forte spazio sottratto alle dinamiche del capitalismo globale. Comunque finisce e crolla con il muro di Berlino anche l'esperienza del blocco socialista, o così chiamato. Il mondo, l'Europa, con questo si ristruttura fortemente e cominciano anche dei flussi migratori. Quindi quelli che fino agli anni 80 erano poche figure di lavoratori stagionali, che per lo più si ricordavano come un po' in modo così macchiettistico nell'immaginario popolare come i marocchini, quelli che venivano a vendere oggettistica sulle spiagge, che comunque erano sì inferiorizzati, ma non così odiati come si è arrivati a odiarli oggi, per tutte le responsabilità di cui sono sovraccaricati e di cui svolgono il ruolo di capri espiatori gli stranieri in generale. Piano piano si scava questo solco nei confronti degli stranieri, e si scava parallelamente al cambiare della politica in materia di immigrazione. Quindi le radici dei CPT sono lontane e affondano già nella legge Martelli del 90. Che succedeva prima della legge Martelli? Che le espulsioni diventano uno strumento ordinario per contrastare l'immigrazione clandestina. Prima della legge Martelli c'era sì il foglio di via obbligatorio, con cui il prefetto poteva ordinare l'allontanamento dal territorio nazionale. Era però un ordine semplicemente scritto, e non potevano essere costrette le persone a lasciare il territorio nazionale. E infatti poi quelli che subivano, insomma, gli veniva intimato di andarsene, rimanevano poi in Italia. C'era anche già prima della legge Martelli l'espulsione con cui la polizia poteva accompagnare fisicamente fuori dal paese uno straniero, però era una procedura ovviamente complicata perché doveva firmare direttamente il ministro degli interni. E quindi è lì che la legge Martelli del 90 va proprio a intervenire perché dà ai prefetti la possibilità e il compito e l'incarico di firmare le espulsioni e quindi le rende di fatto più facilmente eseguibili. Però anche questa nuova procedura istituita dalla legge Martelli non prevede l'immediato accompagnamento alla frontiera. La prima espulsione viene fatta con un'intimazione che assomiglia un po' al vecchio foglio di via. Solo se poi il migrante viene trovato ancora in Italia una seconda volta si procede o si può procedere a questo accompagnamento alla frontiera. E quindi è qui con gli anni 90, proprio con il 90 e con la legge Martelli, che nasce una politica migratoria che di fatto è incardinata sull'idea dell'allontanamento degli irregolari. E quindi è da qui anche che comincia e nasce l'idea di considerarli un nemico, una minaccia per l'ordine pubblico e per la felicità, la sicurezza, la redistribuzione della ricchezza, e nascono le campagne poi di fatto anti-immigrati, anti-stranieri, che, con cui oggi, insomma, ormai non ne dobbiamo più parlare come qualcosa di nuovo, ma sono un dato di fatto delle nostre società. Quali sono però poi i problemi? I problemi che permangono sono ovviamente un problema di costi, problema di costi che avrà di fronte qualunque governo e che ha di fronte ancora oggi qualunque governo. Il costo del rimpatrio di notevoli quantità di immigrati sui nostri territori, e che poi negli anni, dagli anni 90 ad oggi, sono ovviamente aumentati, ha un costo notevolissimo. Inoltre ci sono poi delle difficoltà legate anche ad aspetti geopolitici tra i paesi, perché un'espulsione non è facile, anche perché spesso gli immigrati non hanno i documenti e quindi il tentativo di rimandarli a casa, come viene usata questa espressione, non è sempre facile, perché uno li dice la polizia, li tenta di riconsegnarli ai cosiddetti, ai loro paesi di provenienza, ma il paese di provenienza, siccome non ci sono documenti, non si sa esattamente qual è, e quindi le polizie a loro volta dei paesi considerati di provenienza possono rifiutarli di accettarli indietro come se fossero veramente loro, cioè si possono rifiutare. E quindi che succede? Che l'espulsione non è facile. Infatti, per l'appunto, negli anni in cui vige la legge Martelli, l'Italia riesce ad eseguire in realtà poco più del 10% delle espulsioni. E quindi, insomma, non si possono o non si riescono ad espellere, e allora che si fa? Ed ecco l'invenzione dei centri di permanenza temporanea, invenzione che è datata tra il 95 e il 98. Che fa? Che succede? Quindi è fallito, fallisce il sistema delle espulsioni, ma non è che si ripensa, no, l'impianto complessivo delle politiche migratorie, anzi, piano piano si fa largo e viene avanti l'idea di rendere ancora più rigide le normative in materia di allontanamento dei cosiddetti irregolari. E così due passaggi fondamentali. Nel 95 il cosiddetto decreto Dini, e siamo sempre nell'ambito del centro-sinistra, che introduce una piccola modifica alla legge Martelli, piccola ma grande ed enorme. Infatti cosa si prevede? Prevede l'obbligo di dimora per gli stranieri che sono in attesa di espulsione, ed è qui che si apre la strada per i provvedimenti che poi si configureranno come delle vere e proprie limitazioni della libertà personale degli stranieri durante le procedure di allontanamento. Infatti, dal decreto Dini, che apre la strada, al 97 con il governo Prodi, viene presentata alla Camera il famoso disegno di legge, che poi diviene legge in Parlamento, come riportando il nome degli estensori, dei veri e propri estensori, la legge Turco-Napolitano, la famosa legge 40 del 6 marzo 98, di cui parlerà Lorenzo anche parlando con il sindaco Gianassi tra pochi minuti, e che poi viene direttamente travasata nel testo unico sull'immigrazione del 98. infatti è qui con la Turco Napolitano che si inventano i CPT. Cioè, che succede? Quando non è possibile o ci sono dei rallentamenti o vengono fatti accertamenti, analisi ulteriori prima del rimpatrio, è in questa attesa che è possibile detenere il migrante. Il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino. Ed è quindi da qui la difficoltà di eseguire l'espulsione viene risolta in questa maniera, con propriamente uno strumento di detenzione. Quindi, ovviamente, appena viene fatto il decreto, il governo comincia, i primi centri vengono attivati già nell'estate del 98, ricordiamo il decreto è del marzo del 98, già in estate ci sono nelle regioni del sud, prime tra tutte la Sicilia, la Calabria e la Puglia, l'istituzione dei primi CPT che vengono creati nelle prime strutture dismesse a disposizione, da una parte a un monastero, da un'altra parte è una ex caserma, da un'altra parte una struttura, un mezzo albergo mai completato. Si sta parlando proprio di strutture veramente fatiscenti che permettono quindi anche da un punto di vista della valorizzazione economica, incassi, introiti e scambi tra proprietà immobiliari, tra enti pubblici, enti privati e quant'altro. Partono i primi interventi della Croce Rossa senza neanche le gare d'appalto, in meccanismi davvero anche di dubbia regolarità rispetto alla loro stessa legalità e procedure legali, cose che verranno indagate ampiamente alla luce negli anni successivi e sono le stesse che portano oggi Salvini ad aver fatto campagna elettorale intorno al tema del togliere ai privati il business dell'accoglienza, che comincia proprio in questi anni, cioè con l'istituzione dei primi CPT intorno agli anni 98, 99 e 2000. C'è un dato interessante preso dalla Corte dei Conti che dice che già nel 99, cioè subito dopo l'istituzione dei CPT, pian pianino, invece che lavorare per il rimpatrio, che è già discutibile ma ovviamente sarebbe stato il fine ultimo di tutta la politica migratoria italiana, in realtà dal momento in cui vengono istituiti i CPT ed è possibile la detenzione amministrativa, i rimpatri calano, cioè nel 99 sono circa 8.000 detenuti nei CPT, il 44% viene poi effettivamente rimpatriato, ma subito dopo nel 2000 si cala già al 31% e nel 2001 siamo ancora sotto al 29%. Questi sono dati della Corte dei Conti, quindi credo ci possiamo assolutamente fidare. E quindi in questo senso il trattenimento è un vero e proprio flop, che serve più a umiliare e stigmatizzare gli stranieri detenuti piuttosto che a regolare i flussi migratori. Serve piuttosto a renderli ricattabili anche e soprattutto come forza lavoro. Ovviamente né i Salvini né i Donzelli cominciano le loro campagne elettorali andando a Rosarno o a Saluzzo prendendo i migranti che lì lavorano per cifre infinitesimali in condizioni di lavoro brutali per espellerli, per imporre invece l'utilizzo di manodopera italiana e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali. Ovviamente non è questo che viene fatto, perché ciò che serve è avere questa colonia interna, perché ad oggi tutta la sociologia sulle colonie interne, sociologia che si è sviluppata negli Stati Uniti, torna utile anche in paesi come l'Italia e come paesi d'Europa, proprio per comprendere come queste sacche di disoccupazione ricattata permette poi un abbattimento del costo del lavoro terrificante e la vita di questi migranti che viene continuamente screditata e paragonata e portata a zero, in realtà è quella che permette l'arrivo sulle nostre tavole di moltissimi prodotti delle nostre campagne tanto pubblicizzate in posti come Fico o Italy. È sul sangue, sul sudore, sulla precarietà, sulla paura di questi lavoratori stranieri che si costruiscono enormi affari, grazie anche a questo tipo di politiche migratorie. Quindi la nascita di CPT però, e questo dobbiamo cominciare a dirlo, non passa sotto silenzio, perché non tutta l'Italia è uguale, c'è gran parte del paese che si schiera contro. Ci sono, diciamo, c'è un'opposizione, se vogliamo, democratica e costituzionalista, che dice o giustamente nota le contraddizioni con la Costituzione italiana. Costituzione italiana che prevede restrizione alla libertà personale debbano essere disposte da un giudice, mentre l'espulsione e il trattenimento in attesa di espulsione, cioè l'ingresso e il trattenimento nei CPT, viene deciso da un prefetto, e questa è ovviamente subito una violazione costituzionale. E poi nei CPT ci si finisce senza aver commesso nessun reato, perché la semplice irregolarità del permesso di soggiorno non è un reato penale, ma è un reato amministrativo, e quindi i CPT realizzano sui nostri territori, nel nostro paese, un primo problema di incostituzionalità, andando a porre il problema appunto della detenzione amministrativa e non detenzione penale. Ci sono quindi le manifestazioni, ci sono quindi gli scontri, ci sono quindi le iniziative, e proprio di queste iniziative, di questo conflitto che si dà subito tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, è riconducibile l'audio che sto per farvi ascoltare di Orietta e Lorenzo, che contro il sindaco Gianassi chiedono che il comune di Sesto Fiorentino si prenda le proprie responsabilità e si rifiuti dell'apertura del CPT. Come sono andate le cose lo sappiamo, in realtà la Toscana per lunghi anni ha fatto a meno di centri di permanenza temporanea, di centri di identificazione ed espulsione, e se la Toscana ne ha fatto a meno, parte di questo merito, se non la sua totalità, è anche a compagni come Lorenzo, come Orietta, e alle esperienze collettive nelle quali questi compagni si sono impegnati, che hanno creato le condizioni affinché ci fosse un rifiuto morale e materiale di questa stigmatizzazione nei confronti dei migranti. Tutto questo mi sembrava interessante riportarlo dai nostri microfoni, piuttosto che avvitarci in ragionamenti intorno al lutto di Duccio, che ovviamente lo ricordiamo, è un nostro morto, ma non è il morto in uno scontro etnico tra italiani e rom o tra italiani e stranieri, è tutta un'altra vicenda, e gli stranieri in Italia debbono trovare una nuova emancipazione, ed è proprio dalla loro contributo alle nostre economie e dal loro contributo alle nostre società che dobbiamo ripartire per una nuova convivenza e un processo di liberazione collettivo che non ha niente a che vedere con le nazioni, con il sangue, con il suolo, con i popoli, con le identità, con le razze, che sono tutti concetti, tutte sovrastrutture che debbono lasciare il passo alla materialità delle condizioni di vita e ad altre categorie di analisi e di interpretazione del reale. Con questo, spero di non avervi annoiato, vi saluto alla prossima puntata della nostra stampa rassegnata, e vi mando e vi lascio e vi chiudo con Lorenzo e Orietta, che sapevano da che parte stare. Ciao. Problema, innanzitutto è inutile cercare di... Prima di Sesto Fiorentino. Allora, innanzitutto è inutile cercare di convincersi su posizioni diverse. No, ma io non voglio convincere. No, ma nemmeno noi. Ma nemmeno noi si vuole convincere lei. Il problema però c'è. Allora, c'è stato un movimento di tante persone che hanno detto il problema delle espulsioni non può essere trattato con queste strutture, no? Questo mi sembra il cardine della questione. Se lei probabilmente ci arriva un attimino... Se l'amministrazione comunale di Sesto avesse avuto un atteggiamento forse un po' più coraggioso, non dico che doveva accettare un tipo di posizioni politiche sulla libera circolazione che sono proprie all'associazione e ai movimenti, non dico questo, però se diceva che probabilmente la legge 4098 nell'articolo 12 sulle espulsioni andava rivista, forse prefetto o chi per lui, non so se il consiglio regionale, perché il problema è molto cambiato da un mese a questa parte, cioè c'è stata questa proposta a metà dicembre del prefetto Serra, mi sembra, no? Il 28 dicembre è passata una brutta mozione in consiglio regionale, dopo c'è stata una strage che lei conosce a Prata, c'è stato un altro morto a Ponte Galeria, ci sono state le manifestazioni, cioè questo tipo di struttura suscitano oggettivamente un'indignazione forte, insomma, che dice qui che non ci vanno quelli che commettano reati, ci vanno solo quelli che non hanno la possibilità di, come dire, di avere i documenti, per cui si dà una struttura di galera a chi non ha i documenti, creando un precedente gravissimo in tutto il mondo, perché dice le persone non hanno documenti, non hanno diritti, che roba è questa, no? Allora, perlomeno dire, no? Perlomeno dire che questa questione non può essere affrontata con queste strutture, perché queste strutture non sono umanizzabili per loro costruzione, no? Lì si mettono dentro in attesa, si rimpatria, tant'è che ovviamente cercano un comune vicino a un aeroporto, questo ci possiamo arrivare, no? Nel senso, o sulla costa o qui, però un comune vicino all'aeroporto, perché è più facile anche il trasporto. Allora, probabilmente se c'è una posizione un pochino più forte fin da subito, no, di rivisitazione perlomeno di questo paragrafo di legge, forse il problema Sesto Fiorentino non nasceva nemmeno, perché un tipo, noi non si chiede molto, insomma, alle amministrazioni comunali. Alcune hanno avuto un atteggiamento coraggioso, per cui di tutto rispetto anche nei confronti di una società dove nel 2000 un immigrato qualsiasi purtroppo deve fare i conti con la questura ancora per i soggiorni, per la propria vita, cioè la sua vita è determinata dal rapporto con il commissario di turno e non, no, una vita un pochino più dignitosa dove può fare i conti magari con le amministrazioni anche per i documenti e queste cose. Se cominciamo invece a rovesciare questa cosa, anche che un'altra cosa noi si dice da stamani, quelli che chiamano delinquenti, no? Cioè, nel senso che vengano da altri paesi, da altre mafie, che fanno parte delle mafie, dei racket, del narcotraffico, del traffico, della prostituzione, loro i permessi di soggiorno ce li hanno tutti, li pagano, li comprano, ce li hanno direttamente al proprio paese, e questo ve lo possano dire tutti gli immigrati. È una cosa che è terribile, ma è così. Così lo sanno anche le questure, lo sanno benissimo i commissariati. Il dramma di queste persone va affrontato in un altro modo, no? Perlomeno questo, noi si chiede all'amministrazione comunale, cioè di rivedere questa posizione, ben consci che dentro queste strutture non andrebbero, è inutile che il prefetto Serra continua a dire i protettori, questo e quest'altro. Non è vero, queste strutture non sono per questo tipo di persone. Sono per persone che devono essere rimpatriate perché non hanno i documenti, punto e basta, per cui ci vanno questi che probabilmente vogliono ben altro tipo di accoglienza, insomma, in questo paese. Per cui la cosa che si chiede a noi è rivedere completamente questa posizione, ridiscuterne, credo che sia un atto di coraggio. La seconda cosa, siamo completamente d'accordo, cioè accettare imposizioni, no, da chi che sia, cioè è una cosa gravissima, non credo sia la prima volta che la metropoli scarica i suoi problemi su Sesto Fiorentino, credo su Sesto come su altri posti, credo che però un atteggiamento un pochino più forte anche da questo punto di vista debba essere preso da voi. La terza cosa non gli si dice, cioè se viene fatto qui noi entro 20 giorni portiamo tutta l'Italia antirazzista a impedire la sua apertura. Regionale, io ho vissuto in regione ben due ordini del giorno fa, dove la regione toscana si predispone a prendere in considerazione l'ipotesi di fare a Firenze, non c'è scritto così nella mozione ovviamente, ma si predispone ad attuare la legge turco-napolitana per quanto attiene ai centri di detenzione. Nel momento seduto. È ovvio che dobbiamo attivare il logo del Fabio, no? Io credo e me ne rammarico moltissimo, perché tutti noi che siamo di Firenze, io ci ho lavorato a Sesto, mi devo rammaricare davvero, probabilmente anche un delirio, ma comunque, di una perdita davvero anche di valori e di sentimento solidale, perché sentir dire noi non, sentir dire c'è il problema, basta che non ci riguardi, vuol dire imbarbarire ulteriormente quella che poi era una realtà operaria, una realtà rossa, una realtà che aveva fatto anche della solidarietà un po' un momento di riferimento. Credo che un'amministrazione comunale potrebbe anche avere questo compito, evidentemente si sceglie di non averlo e si dice noi non sappiamo niente, ci chiameranno questi signori. A livello istituzionale posso dire che questa cosa mi turba, perché lei, voi come giunta, vi sentite oggetto di una ipotesi di decisione e non ritenete come consiglio comunale di prendere una qualsivoglia posizione, di fare, voglio dire, una modalità tanto particolare, rivendicando sempre di più i sindaci un ruolo. Da qualche parte lo vorranno fare, noi cercheremo nel movimento e quant'altro che non lo facciano da nessuna parte. Detto questo, io credo che, se mi permetto di dire, che essendo individuati tra le altre ipotesi questa, e ne parlano tutti i giornali, è quantomeno curioso che come amministrazione comunale, come sindaco, come consiglio non si prenda una posizione. Si aspetti, come lei diceva, e queste persone, che poi sono esponenti delle istituzioni stesse, mi risulta, prendano posizione. Lei preferisca, mi scusi, scrivere una lettera sulla stampa per, in dove dice, lei dovrebbe, io non le do consigli, ma parlo dal punto di vista istituzionale, riunire il suo consiglio e prendere in quella sede una decisione per poi rinviarla alla regione e alla provincia e al prefetto, che se non lo sa, martedì mattina ci sarà un incontro dei capigruppo regionali con il prefetto per valutare le ipotesi. Come di sesto è per queste ipotesi, l'ho chiesto prima di intervenire, mi risulta che è stato presentato un ordine del giorno bocciato, non altri ordini del giorno, e dal suo intervento iniziale lei dice siamo in attesa di essere chiamati. È un bel ruolo piuttosto particolare per essere un sindaco, l'attesa di essere chiamati, chiamati da chi? Alla cittadinanza lei gli dirà che non lo vuole, perché è come le discariche, non si vuole da nessuna parte, però ci servono, no? Le discariche. No, e finisco in questo modo con veramente anche uno sdegno, capito? Perché sesto, Toscana generale, sesto in particolare, senza esaltazioni del passato, ma fino almeno a qualche tempo fa, avrebbe svolto l'amministrazione un ruolo che è politico, che è anche quello verso la cittadinanza, non soltanto di preservarla dalle noie e dagli infici che possa portare dei disgraziati, perché questi centri di detenzione fuori legge sono per i disgraziati, non per altro. Avrebbe svolto questo mestiere che deve fare anche un'istituzione democratica, quindi si sta parlando di bolscevichi. Che è quello di non ulteriormente imbarbarire, perché questo paese voi stessi giustamente vi scandalizzate dell'Austria, mentre in Italia si possono affogare tranquillamente nel canale di Otranto, mettere le carte, dire che il problema esiste e fregarsi non la legge il turco napolitano, basta che non vengano a casa propria. Comunque io finisco dicendo, da qui a martedì o il prima possibile il comune di Sesto non li posta, è capito che non li posta. Non c'entra proprio niente nella solidarietà, nell'internazionale, ormai tutte cose, non li vuole perché come non vorrebbe una discarica, insomma, no? Siamo lì, altro c'è poco da chiedere a questo punto. E comunque lo faccia sapere in aspetti di essere chiamato, perché questo anche a livello istituzionale è ben curioso, oppure fa pensare a trattative su questa questione. Ma comunque da sede dove si pigliano le decisioni, se non mi sbaglio, il Consiglio regionale, comunale, la dovreste prendere qui la decisione. Che significa? C'è un problema e non affrontare la questione. Indicano sesto, dice no. Ma io non le chiedo nemmeno da quattro capitoli e poi diciamo no per altre ragioni, l'abbiamo detto. No, lo dite nella sede istituzionale, perché poi lo hanno detto. Scusa. Beh, ma se tu vuoi il consiglio comunale, l'altro non spetta nemmeno a me, ma si deciderà a noi. No, lo decidete voi, però è molto grave, lei dica aspetta questo signore ci manca a chiamare.